Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nel Foro Romano e sto facendo un'esperienza davvero magica. Mi sto recando, pensate, in una parte dell'antico palazzo imperiale, dell'antico palazzo palatino, dove stavano gli imperatori. Questo palazzo, questa parte del palazzo che è direttamente impostata nel foro, nella parte bassa del colle, venne ampliato da Diocleziano, che qui costruì una serie di aule gigantesche, e venne costruita anche la rampa imperiale. Cioè gli imperatori, per poter accedere al palatino, cioè la parte alta del palazzo, salivano questa rampa che aveva ben 7 dislivelli, se ne sono conservati solo 2, e in questo colossale ambiente con i cavalli l'imperatore andava a casa sua. Bene, nel Medioevo proprio questa parte del palazzo venne salvata dalla distruzione. Perché? Perché venne trasformata in chiesa, la chiesa di Santa Maria Antiqua. Quindi vi raccomando davvero di venire a vedere questo luogo. Perché è così importante? Perché questa chiesa è ammantata degli affreschi più cristiani, più antichi, che si trovano a Roma. Corrispondono naturalmente all'arte bizantina, al periodo dell'arte bizantina. Siamo tra il VI e l'XI secolo d.C. ed è impressionante, perché questa chiesa è completamente rivestita di affreschi. Addirittura sono stati contati 7 strati, cioè sono stati aggiunte 7 volte cicli di affreschi uno sopra l'altro. Perché è così importante questo luogo? Beh, è così importante perché nel 705 d.C. il Papa Giovanni VII, che era un greco, decide di fare una cosa straordinaria, cioè come Papa, di venire ad abitare nel palazzo dell'imperatore, nel Palatino. Pensate, se la storia della Chiesa fosse continuata qui, non avremmo avuto il Vaticano, ma avremmo avuto il Palatino. Quindi questa era la cappella del Pontefice, era un luogo impressionante dal punto di vista della qualità dei dipinti. E oggi noi possiamo entrare, visitare gli affreschi rinnovati e naturalmente restare colpiti dalla straordinaria freschezza di queste pitture che ci rimandano ai fasti di Bisanzio.